Certo, figlio o nipote d'imperatore che fosse e con niente di più da comandare ormai di uno squadrone, non era possibile, per mancanza d'oggetti cui applicarsi, che le preoccupazioni di suo padre e di suo nonno sopravvivessero realmente nel pensiero del signor di Borodino. Ma come lo spirito di un artista continua, molti anni dopo la sua morte, a modellare la statua che egli ha scolpito, così quelle preoccupazioni avevano preso corpo in lui, vi si erano materializzate, incarnate, e il suo volto le rifletteva. Era, nella voce, con la vivacità del primo imperatore che muoveva un appunto a un caporale, era con la malinconia pensosa del secondo che soffiava il fumo della sigaretta. Quando passava in abiti civili per le vie di Donzier, un certo lampo negli occhi, che sfuggiva da sotto il suo cappello a bombetta, avvolgeva il capitano dello splendore di un sovrano in incognito. Si tremava quando egli faceva il suo ingresso nell'ufficio del maresciallo d'alloggio, seguito dall'aiutante e dal furiere come da Berthier e da Massena. Se sceglieva la stoffa dei pantaloni per i suoi uomini, fissava il caporale sarto con uno sguardo che avrebbe smascherato Talleyrand e ingannato Alessandro. E a volte, mentre passava in rassegna una camerata, si fermava e, attorcigliandosi i baffi, lasciava che i suoi magnifici occhi azzurri si perdessero in un'espressione sognante, come se stesse edificando una nuova Prussia o una nuova Italia. Ma subito, da Napoleone III, ritrasformandosi in Napoleone I, faceva notare che i bottini non erano tirati sufficientemente a lucido e voleva assaggiare il rancio della truppa. E a casa, nella vita privata, a esclusivo beneficio delle mogli di ufficiali di estrazione borghese, a patto che non fossero massoni, esibiva non soltanto un servizio di Sèvres Bleu Roi degno di un ambasciatore, che, regalato a suo padre da Napoleone, sembrava ancora più prezioso nell'appartamento provinciale da lui occupato lungo il viale della Pallamaglio, come quelle porcellane rare che i turisti ammirano con maggior piacere nell'armadio rustico di un'antica magione adibita a prospera e ben fornita fattoria. Ma anche altri doni dell'imperatore, i modi nobili e affascinanti che avrebbero fatto a loro volta faville in qualche sede estremamente rappresentativa se per alcuni la nascita non significasse una condanna a vita al più ingiusto degli ostracismi, i gesti affabili, la bontà, la grazia e, colma di immagini gloriose sotto uno smalto dello stesso Bleu Roi, la reliquia misteriosa, superstita e illuminata del suo sguardo. Ma a proposito delle relazioni borghesi che il principe intratteneva a Donzier, conviene aggiungere qualcosa. Il tenente colonnello suonava mirabilmente il piano. La moglie del maggiore medico cantava come se avesse vinto un primo premio al conservatorio. Entrambi gli ufficiali pranzavano ogni settimana, con le rispettive consorti, in casa del signor di Borodino. Li lusingava indubbiamente sapere che quando il principe andava in permesso a Parigi era ospite di Madame de Pourtalès, de Murat, eccetera. Tuttavia si dicevano: «È un semplice capitano, è talmente felice che andiamo da lui, del resto è un vero amico». Ma quando il signor di Borodino, che brigava da tempo per avvicinarsi a Parigi, ottenne il trasferimento a Beauvois e fece trasloco, si dimenticò totalmente delle due coppie musicanti, come del teatro di Donzier e del ristorantino dal quale spesso si faceva portare la colazione, e con loro grande scandalo né il tenente colonnello né il maggiore medico, che tante volte avevano pranzato da lui, ricevettero mai più sue notizie. Una mattina, Saint-Loup mi confidò d'avere scritto alla nonna per darle mie notizie e per suggerirle, giacché fra Donzier e Parigi era in funzione un servizio telefonico, di parlare direttamente con me. Insomma, quel giorno stesso, la nonna doveva farmi chiamare all'apparecchio, e Saint-Loup mi consigliò di recarmi alla posta verso le 4:15. Il telefono a quell'epoca non era ancora d'uso corrente come oggi. Eppure l'abitudine fa così presto a spogliare del loro mistero le forze sacre con cui siamo messi in contatto, che, non avendo avuto subito la comunicazione, la sola cosa che mi venne in mente fu che era una faccenda ben lunga, ben scomoda, tanto da essere quasi tentato di sporgere reclamo. Come ormai succede a tutti noi, trovavo che non fosse per i miei gusti sufficientemente rapida nei suoi mutamenti improvvisi la meravigliosa fantasmagoria a cui bastano pochi istanti per far comparire accanto a noi, invisibile ma presente, la persona con la quale vogliamo parlare e che, senza muoversi dal suo tavolo, nella città dove vive, nel caso della nonna Parigi, sotto un cielo diverso dal nostro, con un tempo che non è necessariamente lo stesso, fra circostanze e preoccupazioni che noi ignoriamo e di cui ci parlerà, si trova di colpo trasportata, lei e tutto l'ambiente dove continua a essere immersa, a centinaia di leghe di distanza, accanto al nostro orecchio, nel momento esatto stabilito dal nostro capriccio. Ed eccoci simili al personaggio del racconto, al quale una maga, esaudendo nel desiderio, fa apparire in una luce sovrannaturale la nonna o la fidanzata in atto di sfogliare un libro, di versare lacrime, di cogliere fiori, vicinissima allo spettatore e tuttavia lontanissima nel luogo medesimo dove si trova realmente. Perché il miracolo si compia, non dobbiamo far altro che accostare le labbra al magico diaframma e chiamare, a volte un po' troppo a lungo, lo ammetto, le vergini vigilanti delle quali udiamo ogni giorno la voce senza mai conoscerne il volto e che sono i nostri angeli custodi nelle vertiginose tenebre di cui sorvegliano gelosamente le porte. Le onnipotenti per la cui intercessione gli assenti sorgono, senza che ci sia dato scorgerli, al nostro fianco. Le danaidi dell'invisibile, che senza posa vuotano, colmano, si passano l'un l'altra le urne dei suoni. Le igroniche furie, che nel momento in cui mormoriamo a un'amica una confidenza, con la speranza che nessuno stia a sentire, ci gridano crudelmente «Sì, vi ascolto!» Le sempre irritate serventi del mistero, le ombrose sacerdotesse dell'invisibile, ovvero le signorine del telefono. E non appena è risuonato il nostro appello, nella notte piena d'apparizioni, verso la quale le nostre orecchie s'affacciano esse sole, un rumore leggero, un rumore astratto, il rumore della distanza abolita, e la voce dell'essere amato si rivolge a noi. È lui, è la sua voce che ci parla, che è lì. Ma com'è lontana! Quante volte non m'è riuscito, ascoltandola, di evitare l'angoscia, come se davanti all'impossibilità di vedere, se non dopo lunghe ore di viaggio, colei la cui voce era così prossima al mio orecchio, io avvertissi meglio quanto vi sia di deludente sotto l'apparenza della più tenera vicinanza e a quale distanza dalle persone amate possiamo trovarci nel momento stesso in cui sembra che basterebbe protendere una mano per trattenerle. Presenza reale, certo, questa voce così vicina nella separazione effettiva, ma anticipazione anche di una separazione eterna. Molte volte, ascoltando in questo modo, senza vedere colei che mi parlava da lontano, mi è parso che quella voce risuonasse dalle profondità senza ritorno e ho conosciuto l'ansia che mi avrebbe afferrato un giorno quando una voce sarebbe tornata così, ma sola e sciolta ormai da un corpo che non mi sarebbe più dato rivedere, a sussurrare al mio orecchio qualche parola che avrei voluto baciare al suo passaggio su labbra ridiventate polvere per sempre. Quel giorno a Donzière il miracolo, ahimè, non accadde. Quando arrivai all'ufficio postale, la nonna mi aveva già chiamato. Entrai nella cabina, la linea era occupata, a parlare era qualcuno il quale evidentemente ignorava che non ci fosse nessuno a rispondergli, giacché, quando portai all'orecchio il ricevitore, quel pezzo di legno si mise a sbraitare come pulcinella. Io lo feci tacere, come al teatro dei burattini, rimettendolo al suo posto. Ma proprio come pulcinella, non appena tornavo a prenderlo, ricominciava il suo sproloquio. Come estrema, disperata risorsa finì, riagganciando definitivamente il ricevitore, col soffocare le convulsioni di quel troncone sonoro che blaterò fino all'ultimo secondo e andai a cercare l'impiegato, il quale mi disse d'aspettare un momento. Poi parlai e dopo qualche istante di silenzio mi giunse all'improvviso quella voce che, a torto, credevo di conoscere perfettamente, perché ogni volta che, prima d'allora, la nonna aveva parlato con me, io avevo sempre seguito ciò che diceva sullo spartito aperto del suo viso, dove gli occhi avevano tanta parte, mentre la sua voce in quanto tale l'ascoltavo oggi per la prima volta. E siccome mi appariva mutata nelle sue proporzioni dall'istante in cui era diventata un tutto e giungeva a me così sola e senza l'accompagnamento dei tratti del volto, scopersi quanto dolce fosse quella voce. Né forse d'altronde lo era mai stata sino a quel punto, giacché la nonna, sentendomi lontano e infelice, credeva di potersi abbandonare all'effusione di una tenerezza che di solito conteneva e celava per principi educativi. Era dolce, ma com'era triste, anche a causa innanzitutto della sua stessa dolcezza, decantata quasi più di quanto poche voci umane siano mai riuscite ad esserlo, decantata di ogni durezza, di ogni egoismo, di qualsiasi elemento di resistenza agli altri. Fragile a forza di delicatezza, sembrava di continuo sul punto di spezzarsi, di spirare in un puro fiotto di lacrime. E avendola tutta sola accanto a me, guardandola così senza la maschera del volto, notavo per la prima volta i segni delle afflizioni che l'avevano incrinata nel corso della vita. Ma era poi esclusivamente la voce che, col suo essere sola, mi dava quell'impressione nuova e straziante? No, quell'isolamento della voce era piuttosto come un simbolo, un'evocazione, una diretta conseguenza di un altro isolamento, quello della nonna per la prima volta separata da me. Gli ordini o i divieti con i quali continuamente mi si rivolgeva nella vita d'ogni giorno, la noia dell'obbedienza o la febbre della ribellione che neutralizzavano la mia tenerezza per lei, erano aboliti in quel momento e potevano esserlo anche per il futuro, dal momento che la nonna non esigeva più che io restassi accanto a lei, sottoposto alla sua legge, ma mi stava parlando della sua speranza che io mi trattenessi senz'altro a Donzier o perlomeno vi soggiornassi il più a lungo possibile in considerazione dei benefici che potevano derivarne alla mia salute e al mio lavoro. Così, quel che avvertivo sotto la piccola campana applicata al mio orecchio era, libera dalle opposte pressioni che giorno dopo giorno le avevano fatto da contrappeso e dunque irresistibile, tale da sollevarmi tutto intero, avvertivo la nostra reciproca tenerezza. Consigliandomi di restare, la nonna mi ispirò un ansioso e folle bisogno di tornare. La libertà che ormai mi lasciava e alla quale non avevo mai immaginato che potesse accondiscendere, mi sembrò all'improvviso triste, come la libertà che mi sarebbe toccata dopo la sua morte, quando l'avrei amata ancora e lei avrebbe rinunciato per sempre a me. Gridai «Nonna! Nonna!» e avrei voluto abbracciarla, ma accanto a me non c'era che quella voce, fantasma non meno impalpabile di quello che sarebbe venuto forse a visitarmi quando lei fosse morta. «Parlami!» Ma ecco che, lasciandomi ancora più solo, la voce cessò proprio allora di giungermi all'orecchio. La nonna non mi ascoltava più, non era più in comunicazione con me, non eravamo più l'uno di fronte all'altra, udibili a vicenda. Continuavo a chiamarla brancolando nella notte con la sensazione che anche i suoi richiami si stessero disperdendo. Palpitai della stessa angoscia patita in altri tempi, in un lontanissimo passato, il giorno in cui bambino l'avevo perduta tra la folla. Angoscia, più che di non ritrovarla, di sapere che lei mi stava cercando e pensava che io la stessi cercando. Angoscia abbastanza simile a quella che avrei provata un giorno parlando a qualcuno che non può più rispondere e che si vorrebbe almeno potesse ascoltare tutto quanto non gli abbiamo mai detto e sapere che non soffriamo. Mi sembrava già un'ombra amata, quella che mi ero lasciata sfuggire tra le ombre. E solo davanti all'apparecchio continuavo a ripetere invano: Nonna, nonna. Come Orfeo, rimasto solo, ripete il nome della morta. Alla fine mi decisi a lasciare la posta e a raggiungere Robert al ristorante per dirgli che, in previsione di un telegramma che m'avrebbe forse costretto a partire, preferivo per ogni evenienza informarmi sull'orario dei treni. Tuttavia, prima di prendere quella decisione, avevo tentato di invocare un'ultima volta le figlie della notte, le messaggere della parola, le divinità senza volto. Ma le capricciose guardiane non avevano voluto dischiudermi le porte meravigliose, o piuttosto non riuscirono a farlo. Ebbero un bel invocare instancabilmente, com'era loro costume, il venerabile inventore della stampa e il giovane principe collezionista di pittori impressionisti e guidatore d'automobili, il quale fra l'altro era nipote del capitano di Borodino. Gutenberg e Wagram lasciarono senza risposta le loro suppliche e io me ne andai, certo che l'invisibile, pur sollecitato, sarebbe rimasto sordo.